le marche, dicevi. A tutte le marche, appunto. Ci sono forme di lotta anche nuove, o perlomeno che prendevano solo allora una consistenza. Insomma, per esempio, nelle varie città si crearono dei comitati rivoluzionari che sedevano in permanenza alla presenza dei cittadini e dei lavoratori, si rizzarono alberi della libertà attorno alle quali si fecero feste, balli popolari, comizi, eccetera. In alcune delle cittadine delle Marche della Romagna, cioè parlo dei centri minori, si fece la proclamazione della Repubblica. Io percorsi allora quasi ogni giorno, insomma, il tratto da Ancona fino a Ravenna, Forlì, eccetera, e veramente ebbi la sensazione di una ondata di fondo, insomma, che investiva un sistema che si andava logorando attraverso, appunto, la guerra di Tripoli, l'insorgere di nuove esigenze sociali da parte degli operai e da parte dei contadini. La Confederazione Generale del Lavoro proclamò allora lo sciopero. Lo proclamò, se ricordo bene, inizialmente per 48 ore, poi ridusse la manifestazione dello sciopero a 24 ore, attirandosi da parte di Mussolini, che allora dirigeva l'Avanti, l'accusa di fellonia, e in verità l'appoggio della Confederazione Generale del Lavoro in quell'occasione ci mancò, se non appunto sotto questa forma simbolica di uno sciopero di 24 ore. Ma ci furono invece forti manifestazioni popolari a Milano, a Roma, a Napoli. Ad Ancona poi e in Romagna confluirono sovversivi, chiamiamoli così, che venivano da tutte le province, in bicicletta, in treno, per unirsi alle manifestazioni. Uno degli episodi che potevano essere tra i più drammatici fu quando il governo, che si era molto allarmato di questa situazione di Ancona, fece sbarcare ad Ancona i marinai dell'ammiraglio Umberto Cagni. Cagni era molto popolare per aver partecipato alle spedizioni artiche, se ricordo bene, dell'epoca, assieme al Duca d'Abruzzi, eccetera. E questi marinai erano stati addirittura spaventati per quel che li attendeva al momento dello sbarco ad Ancona. Noi, con una manifestazione, anche questa di tipo nuovo, mandammo incontro ai marinai le nostre donne, le mogli, i figli, con le braccia cariche di fiori, per cui questi poveri marinai si furono sommersi dalla gioia popolare invece di trovarci alle prese con gente armata di coltelli o di pugnali. Episodio ugualmente che fece allora molta impressione avvenne nei pressi di Ravenna a Savio, quando un drappello di cavalleria con in testa il generale Agliardi si trovò circondato da una folla di braccianti e di contadini, e fu messo nella necessità o di ricorrere o di far fuoco o di arrendersi. Preferì di arrendersi. Il generale consegnò la sua spada, cosa che allora fece molto, molto, molto chiasso.